Capitolo 21. A Catherine bastò un'occhiata per rendersi conto che il suo appartamento era molto diverso da quello che Harry le aveva descritto, cercando di spaventarla. Non era affatto enorme, e non c'erano né arazzi né velluti. Le mura erano rivestite di carta da parati, il pavimento ricoperto di tappeti, le finestre non erano meno perfette, né i vetri meno tersi di quelli del soggiorno. I mobili, benché non fossero all'ultima moda, erano belli e confortevoli, e la stanza nell'insieme si rivelava tutt'altro che deprimente. Rassicuratasi immediatamente su questo punto, decise di non perdere tempo a esaminare tutto minuziosamente, dato che temeva molto di fare una scortesia al generale arrivando in ritardo. Si svestì, quindi, il più in fretta possibile, e stava per disfare il bauletto della biancheria che aveva portato con sé in carrozza, per poterne disporre subito, quando improvvisamente le cadde lo sguardo su di una grossa cassapanca che si trovava in una nicchia accanto al caminetto. A tale vista sobbalzò e, dimenticando tutto il resto, rimase immobile a guardarla meravigliata, mentre questi pensieri le attraversavano la mente. È davvero strano, proprio non me l'aspettavo. Un'immensa, pesante cassapanca. Cosa può contenere? Perché l'hanno messa lì? Sembra che abbiano voluto nasconderla. Voglio guardarci dentro. Costi quel che costi, ci guarderò. E subito, anche, alla luce del giorno. Se aspetto fino a stasera, mi si potrebbe spegnere la candela. Si fece avanti e la esaminò attentamente. Era di legno di cedro, curiosamente intarsiata di un legno più scuro. Poggiava su di una base intagliata dello stesso legno che la teneva sollevata di circa 30 centimetri dal pavimento. La serratura era d'argento, anche se ossidata dal tempo. A ogni estremità vi erano i resti irregolari di maniglie anch'esse d'argento, rotte forse prematuramente a causa di un oscuro atto di violenza. E al centro del coperchio c'era un misterioso monogramma dello stesso metallo. Catherine si chinò a scrutarlo, ma non riuscì a identificare con certezza nessuna lettera. Da qualunque parte la guardasse, l'ultima lettera non poteva essere una T. Eppure, che in casa ci potesse essere un monogramma diverso, era circostanza tale da suscitare un grado non comune di stupore. Se originariamente non apparteneva a loro, quali strani eventi l'avevano fatta cadere nelle mani della famiglia Tilney? Il suo timore e la sua curiosità crescevano di minuto in minuto, e afferrando con mani tremanti il fermaglio della chiusura, decise che doveva a tutti i costi scoprire qual era il suo contenuto. Con difficoltà, poiché sembrava che un'oscura forza le opponesse resistenza, alzò il coperchio di pochi centimetri. Ma in quel momento un improvviso bussare alla porta la fece sobbalzare, lasciò la presa e il coperchio ricadde con allarmante violenza. L'inopportuna intrusa era la cameriera della signorina Tilney, mandata dalla padrona per aiutare la signorina Morland. E benché Catherine la congedasse immediatamente, questa interruzione servì a richiamarla al senso del dovere e la obbligò, nonostante l'ansioso desiderio di risolvere questo mistero, a continuare a vestirsi senza ulteriori ritardi. Non procedeva però molto rapidamente, perché i suoi pensieri e il suo sguardo erano ancora attratti da quell'oggetto, disposto così ad arte per suscitare interesse e timore. E benché non osasse perdere un momento in un secondo tentativo, non poteva fare a meno di restare a pochi passi dalla cassapanca. Considerando però che ormai aveva infilato una manica del vestito, pensò che dopo tutto era quasi pronta e quindi poteva anche permettersi di soddisfare senza danno l'impaziente curiosità. Certo, poteva anche perdere un momento ed era sicura che con uno sforzo disperato sarebbe riuscita a scoperchiare la cassa, a meno che a opporle resistenza non fossero forze soprannaturali. Fattasi dunque animo, balzò in avanti e la sua fiducia in se stessa non la ingannò. Con un gesto deciso, scoperchiò la cassa. E, al suo sguardo stupito, apparve un copriletto bianco di cotone, ben piegato in un angolo della cassapanca, che poteva vantarne l'incontrastato possesso. Lo stava ancora fissando attonita per la sorpresa quando la signorina Tilney, ansiosa che l'amica si sbrigasse, entrò nella stanza e, alla vergogna crescente di aver nutrito per qualche minuto delle aspettative assurde, si aggiunse quella di venire scoperta nell'atto di curiosare così scioccamente. È una strana casapanca, vero? Disse la signorina Tilney mentre Catherine la chiudeva in fretta e si girava verso lo specchio. È impossibile dire da quante generazioni sia qui. Come mai sia stata messa in questa stanza non lo so, ma non l'ho fatta togliere perché ho pensato che qualche volta avrebbe potuto essere utile per riporvi i cappelli, cuffiette. Il guaio è che è così pesante che è difficile aprirla. Comunque in quell'angolo almeno non dà fastidio. Catherine non era in condizioni di parlare, dato che stava contemporaneamente arrossendo, allacciandosi l'abito e formulando saggi proponimenti con la più impetuosa rapidità. La signorina Tilney alluse gentilmente al suo timore di essere in ritardo e dopo mezzo minuto correvano entrambe giù per le scale e scoprivano che tale timore non era stato del tutto infondato, dato che il generale, che stava misurando a grandi passi il soggiorno con l'orologio in mano, nello stesso istante del loro ingresso tirò con violenza il cordone del campanello e ordinò la cena in tavola immediatamente. Catherine tremò all'enfasi con cui egli aveva pronunciato queste parole e sedette pallida e senza fiato, nell'atteggiamento più umile, preoccupata per i suoi amici e piena di odio contro tutte le vecchie cassapanche. Il generale, recuperando, non appena la guardò, i suoi modi cortesi, passò il resto del tempo a rimproverare la figlia per aver messo fretta così scioccamente alla sua bella amica, che era completamente senza fiato per la corsa fatta, quando non c'era un motivo al mondo per cui dovessero sbrigarsi. Ma Catherine non riuscì a superare il doppio disagio datole dal pensiero che aveva procurato una predica all'amica e dal fatto di sentirsi lei stessa una grande sciocca, finché non furono felicemente seduti a cena, quando i sorrisi compiaciuti del generale e il proprio ottimo appetito le restituirono la serenità. La sala da pranzo era una stanza splendida, adatta per le sue dimensioni a essere utilizzata per un soggiorno molto più grande di quello d'uso comune, e arredata in uno stile lussuoso e costoso, quasi sprecato agli occhi inesperti di Catherine, che non seppe notare altro che la sua vastità e il numero dei servitori. Riguardo al primo punto, espresse ad alta voce la sua ammirazione, e il generale, con fare molto benevolo, riconobbe che in effetti le dimensioni della stanza non erano trascurabili. E confessò quindi che per quanto egli si curasse ben poco di simili particolari, come del resto la maggior parte della gente, tuttavia considerava una sala da pranzo sufficientemente ampia una delle necessità della vita. Supponeva comunque che lei dovesse essere abituata ad appartamenti molto più grandi dal signor Allen. Oh, no, davvero, lo rassicurò onestamente Catherine. La sala da pranzo del signor Allen non era grande neppure la metà di questa. E lei non aveva mai visto una stanza così ampia in vita sua. Il buon umore del generale aumentò. Ebbene, dato che egli quelle stanze le possedeva, pensava sarebbe stato sciocco non usarle. Ma era convinto, sul suo onore, che stanze grandi la metà di quella dovessero essere più comode. Era certo che la casa del signor Allen aveva le giuste dimensioni per viverci comodi e felici. La serata passò senza ulteriori incidenti e durante le occasionali assenze del generale Tilney con molta più allegria. Solo in sua presenza Catherine avvertiva, sia pure in minima parte, la fatica del viaggio. E anche allora, anche nei momenti di leggera stanchezza o di lieve tensione, quel che predominava in lei era in generale una sensazione di felicità, per cui poteva pensare ai suoi amici di Bath senza desiderare minimamente di essere con loro. Durante la notte ci fu tempesta. C'erano state folate di vento per tutto il pomeriggio e quando la compagnia si sciolse, il vento soffiava ancora forte e pioveva a dirotto. Catherine, mentre attraversava l'atrio, ascoltò il temporale con un senso di timore e quando sentì l'infuriare degli elementi intorno all'antico edificio e il vento che con furia improvvisa faceva sbattere una porta in lontananza, si rese conto per la prima volta che si trovava davvero in un'abbazia. Sì, questi erano suoni caratteristici, le riportavano alla mente un'infinita varietà di terribili situazioni e di scene di orrore di cui quegli edifici erano stati testimoni e che quelle tempeste avevano preceduto. E si rallegrò davvero con tutto il cuore delle circostanze più felici che avevano accompagnato il suo ingresso entro mura così solenni. Lei non aveva niente da temere da assassini notturni o da libertini ubriachi. Harry aveva scherzato quando le aveva raccontato quelle cose la mattina. In una casa così elegante, con tanti servitori, non poteva esserci niente da esplorare o da patire. E se ne poteva andare a letto tranquilla, come se fosse stata nella sua camera a Fullerton. Fattasi animo, con queste sagge riflessioni mentre saliva le scale, riuscì, specialmente quando ebbe saputo che la stanza della signorina Tilney era a solo 2 porte di distanza, a entrare nella sua con cuore abbastanza saldo e immediatamente si sentì sollevata nel vedere l'allegro chiarore del fuoco nel caminetto. Com'è bello, si disse mentre si avvicinava al parafuoco. Com'è bello trovare il fuoco già acceso, piuttosto che dover aspettare tremanti di freddo che tutta la famiglia sia a letto, come è capitato a tante povere ragazze. Finché una vecchia serva fedele non ti spaventa entrando con in mano una fascina. Come sono felice che Northanger sia quella che è. Se fosse stata simile a certi altri posti, non so se in una notte come questa mi sarebbe bastato il coraggio. Ma qui certo non c'è niente di cui aver paura. Si guardò intorno. Le sembrò che le tende si muovessero. Non poteva essere altro che la violenza del vento che penetrava attraverso le fessure delle imposte. E per assicurarsi che fosse così, Catherine si fece avanti baldanzosamente, canticchiando con indifferenza un motivetto, sbirciò coraggiosamente dietro ogni tenda, non vide sui bassi davanzali niente che potesse suscitare terrore, e appoggiando la mano contro le imposte, poté rendersi conto pienamente della violenza del vento. L'occhiata che lanciò alla vecchia cassapanca, finita la sua ispezione, non fu priva di utilità. Considerò con disprezzo gli assurdi timori ispirati da una sciocca fantasia e incominciò a prepararsi per la notte con perfetta tranquillità. Doveva fare con calma, non doveva affrettarsi, non le importava proprio niente se era l'ultima persona della casa ancora in piedi. Non avrebbe attizzato il fuoco, perché sarebbe stata una prova di viltà, come se avesse desiderato sentirsi protetta dalla luce dopo essersi messa a letto. Il fuoco, quindi, si spense e Catherine, dopo aver impiegato quasi un'ora per i suoi preparativi, incominciava a pensare di mettersi a letto quando, nel lanciare un'ultima occhiata alla stanza, fu colpita dalla comparsa di un secretaire nero, alto e antiquato, che, benché fosse piuttosto in evidenza, non aveva notato prima. Subito le si affollarono alla mente le parole di Harry, la sua descrizione del secretaire di ebano, che in un primo momento sarebbe sfuggito alla sua attenzione, e benché in effetti non ci potesse essere niente dentro, la cosa era bizzarra. Si trattava di certo di una coincidenza straordinaria. Prese la candela ed esaminò attentamente il secretaire. Non era assolutamente d'ebano ed oro, ma era di legno giapponese. Legno giapponese, nero e giallo del tipo più fine. E alla luce della candela, il giallo era molto simile all'oro. La chiave era nella serratura e lei fu presa da una strana tentazione di guardarvi dentro. Non che si aspettasse minimamente di trovarvi qualcosa, ma era così strano dopo quello che Harry aveva detto. In breve, non sarebbe riuscita a dormire se non l'avesse ispezionato. Così, dopo aver messo con la massima cautela la candela su una sedia, afferrò la chiave con mano tremante e cercò di girarla, ma la chiave resistette a tutti i suoi sforzi. Allarmata, ma non scoraggiata, tentò nell'altro verso e ci fu uno scatto. Ed ella credette di essere riuscita, ma che cosa strana e misteriosa, lo sportello era sempre inamovibile. Si fermò un momento, senza fiato per la meraviglia. Il vento fischiava nel camino, torrenti di pioggia si abbattevano contro le finestre, e ogni oggetto sembrava gridarle l'orrore della sua situazione. Mettersi a letto sarebbe comunque stato vano, dato che non sarebbe mai riuscita a dormire, sapendo che c'era poco lontano da lei un secretaire così misteriosamente chiuso. Si dedicò dunque di nuovo alla chiave e, dopo averla girata per qualche istante in ogni possibile direzione, rapida e decisa come chi agisce con la forza della disperazione, ecco che improvvisamente lo sportello cedette. Il cuore le balzò in petto per l'esultanza di aver riportato una simile vittoria. e dopo aver spalancato ogni sportello, il secondo era assicurato da serrature di fattura meno prodigiosa della prima, non riuscì per il momento a vedere niente di insolito, ma vide anche che c'era una doppia fila di cassettini con sopra e sotto dei cassettini più grandi e al centro uno sportellino, pure chiuso a chiave, custodiva con tutta probabilità una cavità di grande importanza. Il cuore di Catherine batté più veloce, ma il coraggio non le venne meno. Le guance arrossate dall'ansia, sforzando la vista per la curiosità, trovò la maniglia di un cassetto. Le spedite la ferrarono e lei tirò. Era completamente vuoto. Non trascurò nessun cassetto e in nessuno trovò niente. Ben informata circa l'arte di nascondere tesori, non sfuggì alla sua perspicacia la possibilità di un doppio fondo e tastò con ansia ogni superficie, ma invano. Rimaneva da esplorare solo quella cavità centrale e benché fin dall'inizio non avesse mai pensato di trovare qualcosa in quel secrétaire e non fosse affatto delusa dell'inutilità delle sue ricerche fino a quel momento, sarebbe d'altronde stato sciocco non esaminarlo completamente, dato che si trovava lì. Ci volle del tempo prima che riuscisse ad aprire lo sportello, visto che con quella serratura interna incontrò le stesse difficoltà che l'avevano ostacolata con quella esterna. Ma infine lo sportello si aprì e questa volta la ricerca non fu vana. Alla vista acuta di Catherine non sfuggì un rotolo di carta spinto nell'angolo più lontano della nicchia, quasi a volerlo nascondere. E quello che provò in quel momento è indescrivibile. Il cuore le balzò in petto, le ginocchia tremarono, il suo viso si fece pallido. Afferrò con mano incerta il prezioso manoscritto. Le era bastata un'occhiata per distinguere che c'era scritto qualcosa. E mentre, presa da reverenziale timore, riconosceva l'avverarsi straordinario di quel che Harry aveva previsto, immediatamente decise che avrebbe esaminato ogni riga prima di tentare di riposare. La luce della candela era così fioca che Catherine si girò di scatto preoccupata, ma non c'era pericolo che si spegnesse improvvisamente. Avrebbe bruciato ancora per alcune ore. E, per non incontrare difficoltà nel decifrare una scrittura così antica, tentò in fretta di renderla più viva. Ahimè. Smoccolarla e spegnerla fu tutt'uno. Nemmeno l'estinguersi di una lampada avrebbe potuto provocare un effetto così sconvolgente. Catherine, per pochi momenti, fu paralizzata dall'orrore. Era proprio spenta. Non c'era nemmeno un bagliore all'estremità dello stoppino che potesse far sperare di riaccenderla. Tutto era immobile. La stanza era immersa nella più impenetrabile oscurità. Una violenta raffica di vento con furia improvvisa crebbe l'orrore del momento. Un brivido percorse Catherine dalla testa ai piedi. Nella pausa che seguì al suo orecchio teso, allo spasimo, parve di distinguere un suono di passi che si allontanavano e una porta che si chiudeva in lontananza. Nessun essere umano avrebbe potuto resistere oltre. Un sudore freddo le coprì la fronte. Il manoscritto le sfuggì di mano e cercato il letto a tastoni, Catherine vi saltò dentro in un attimo e cercò sollievo a tutto quell'orrore tirandosi le coperte fin sopra la testa. Chiudere occhio a dormire quella notte sentiva che era del tutto fuori questione. Con una curiosità risvegliata così a ragione, con l'animo tanto agitato, riposare doveva essere assolutamente impossibile. E la tempesta fuori infuriava così violenta. Non aveva mai avuto paura del vento, ma ora ogni raffica pareva piena di oscuri significati. Come si poteva spiegare la scoperta del manoscritto, avvenuta in modo tanto prodigioso e che in modo altrettanto prodigioso faceva avverare le predizioni del mattino? Quale poteva esserne il contenuto? A chi si riferiva? E come aveva potuto restare nascosto tanto a lungo? E quale cosa strana e singolare che proprio lei fosse destinata a scoprirlo? Finché non fosse stata padrona del suo contenuto, comunque, non avrebbe potuto avere riposo né pace. Ed era decisa a esaminarlo non appena fossero apparsi i primi raggi di sole. Ma erano Molte le ore noiose che dovevano ancora passare, e Catherine rabbrividiva, si rigirava nel letto, invidiava chi poteva godersi un sonno tranquillo. La tempesta infuriava ancora, e molti erano i rumori, ancor più terrorizzanti del vento, che a intervalli arrivavano al suo orecchio allarmato. A volte le pareva che si muovesse la tenda intorno al letto, altre volte era la chiave della porta che oscillava, come se qualcuno tentasse di entrare. Sembrava che sordi mormorii serpeggiassero lungo il corridoio e più di una volta le si gelò il sangue nelle vene al suono di gemiti lontani. Le ore passavano lentamente e la povera Catherine aveva sentito tutti gli orologi della casa battere le 3 prima che la tempesta si placasse. O forse fu lei che, senza nemmeno rendersene conto, cadde profondamente addormentata.